prova 1 2 3, prova radio. Chi è avanti? Prova 1 2 3, prova radio. Oh, sempre manda giù, vai. Prova 1 2 3, prova, ma vabbè, se mi dici che va bene io mi fido di te, va bene, grazie, dai. Attenzione Max, se mi ascolti, se mi copi, 1 2 3 4 5. Per me sì, bene, forte anche. Non so se tu a me mi ascolti, eh. Guarda a vedere 1 2 3 1 2 3, prova. E vabbè, dai, io ce lo mantenivo entro caso. Va bene, ok. Guarda a vedere. Hola, 1 2 3, prova radio. Sì. E che segnale devi vedere a me? Ah, ecco, meno male. E il mio? Com'è? Migliore del solito? Sì, quasi fondo scala, sì. Hola, 1 2 3. L'altra meglio è... No, la mia, quella c'è fuori, da. Guarda Marco se mi ascolti. Passami via, non PMF, sì. Ah, dove sei? Io sono a casa mia, ciao Giulio. Ciao, no, voi intendevo PMR o corso, no, perché ti ho sentito che vuoi prendere le pelle. Tu vuoi un consiglio? Vai alla MD che c'è qui vicino a casa mia. E costa 5,29 e ti devo dire che la fiamma è sempre molto alta, ma sempre però con quel pellet lì. Invece l'ho comprato lì alla CRAI e lì costava 5,49 e scaldava molto di meno. Vedi tu se sei interessato. Ma guarda, io ti dico una cosa, Giulio, allora ti spiego, io sto prendendo lo Swiss che costa 5,35 mi pare, o 39, è molto buono come tipo di pelle, ti scalda, però ne ho provato un tipo che costa 4,75 e non puoi stare vicino alla stufa. Cioè, no, scalda in una maniera spaventosa e costa molto meno. E dove l'hai preso quello? Dimmelo subito, così me lo sperimento anch'io. Perché però bisogna considerare se è sporco, se c'è molto terriccio dentro mio, Massimiliano. Quello che ti sto dicendo io è pulitissimo, proprio. No, sai perché te lo dico? Perché quello con la terra, cioè la polvere del legno stesso, no? A me mi ha bloccato la stufa un giorno. No, vabbè, questo non ne ha polvere, zero completamente. E non mi ricordo come si chiama, il sacchetto è trasparente e ha delle bande verdi. E adesso non mi ricordo, si chiama Bio Pellet, una cosa del genere, ma è una cosa spaventosa. Cioè io non ci credevo che scaldasse così la stufa. Costa 4,75 e l'hanno aumentato, se no era 4,69. Caspita, il prezzo è buonissimo il prezzo, guarda. E chi lo vende? Io lo prendo alla Bricome, capito? Ce l'hanno sia fuori dove vendono la parte, diciamo, edile, e sia proprio Bricome come negozio, hai visto? Vicino alle casse ci sono vari tipi di pelle. O da una parte o dall'altra, dove c'è meno gente dentro lo prendo. Ah, ok. Allora lo voglio provare anch'io. No, io devo essere sincero, questo qua dalla MD, questo nuovo negozio che c'è in via Eda, no, qui a dei punti, è 5,29 e ho visto che la fiamma non si abbassa mai, è sempre altissima, e tu mi insegni che quando la fiamma è sempre molto alta significa che il riscaldamento sta andando alla grande, no? Sì, ma guarda Giulio, tu pensa che allora con questo sacchettino qua verde che prendo io, la mia stufa forse in un'ora, anche un'ora e un quarto, scalda tutto bene, arriva a 22-23 gradi, entra subito in modulazione perché mi scalda al volo la casa. L'altro ci mette oltre le 2 ore, quindi già si vede che il pellet è molto superiore, capito? Anche se guardandolo così pare un pezzo di segatura, eppure scalda molto. E poi ce n'è un altro tipo, sempre con sacco verde, si chiama Bio Pellet, puro abete, bianco, e anche quello lì è molto molto buono. E quello costa di più però, così è? Sì, quello lì costa 5,10 e quello che prendo io costa 4,75. Infatti sono andato già 2 volte e non l'ho trovato, perché va via subito, capito? E quindi sto prendendo quello da 5.10 che è molto buono, uguale, non proprio uguale a quello, ma si assomiglia molto. Ah, è ok. E adesso il prossimo rifornimento vado e provo quello a vedere. Così se va benissimo come mi sta dicendo, che ci credo, sia ben chiaro, è chiaro che perché non devo risparmiare, perché devo spendere di più. Tanto vado con la macchina, non è che vado a piedi, oppure qui mi conviene perché è a 20 metri in linea d'aria da dove sono io, per dire, no? Però ho constatato che va bene ugualmente, ma tu mi stai dicendo che si risparmia e a me non mi costa niente andare a Bricome, certo, o massimo già. Ok, ti ringrazio per l'informazione. Vabbè, Claudio c'è anche, ciao Claudio. Sì, aspetta un secondo che così riprendo che vi saluto, che io mi sto allontanando dalla radio che devo uscire, da, al limite più tardi se ci siete riprendo, ok? Poi Giulio, giustamente, io ho la stufa salva spazio, quindi può darsi pure che può variare da stufa a stufa, ecco. Nella mia funziona benissimo comunque, no, su quello non c'è dubbio. Ok, dai, faccio riprendere a Claudio e ci sentiamo. Vai Claudio. Voglio non riprendere, riprendo io, sì, ok, va bene, ma lo provo col pellet che mi hai detto, Massimiliano, grazie comunque, dai. Io ho quella idro, la stufa, mi riscalda i radiatori anche. Va bene, dai, ci sentiamo, ciao Massimiliano, se stai chiudendo. Ciao Giulio, sì, sto chiudendo, ciao. Comunque era in 27 Claudio, mi salvo. Ah, adesso accendo in 27, ok, grazie, ciao. Tore, Giovanni! Ebbene, non sei in giro? No, beh Giovanni, buonasera. No, mi sto preparando, adesso ceniamo, tra un po', da. Sta guardando la TV, la 25, e niente. Tra un po' usciamo, verso le 8:30 così. Ah, c'è freschetto che c'è. Comprati bene. Ah, qua a casa sono maniche corte, Giovanni, sta benissimo. Bene. Non va a mangiarti la pizza? No, ceniamo a casa, Giovanni. Ah, bene. E oggi già mi senti bene già. A voglia, forte e chiasso. Già lo so dove vieni, da, già lo so, l'ho saputo dove vieni là, solito posto. Vabbè, lì purtroppo sei troppo in basso. È quello, se ero a casa tanto quanto, sentivo benissimo, ma purtroppo lì, secondo che in che punto ti metti qua non arrivi. Ero forse, anzi, è fin troppo che arrivavo, anche se arrivavo basso, però la posizione era brutta, ecco, l'antenimo interno si può immaginare. Però arrivo, Tore mi sentiva bene, però Tore c'aveva l'antenna esterna, là. Lo so, Tore riceve bene, ti grido, ha l'antenna esterna. Eia. Ebbene, non l'hai sentito? No, stamattina tramite WhatsApp e basta. E in radio no. E chi sono di razza, Giovanni? Come gli sale? Sarà arrostendo adesso. Non ha acceso per niente. E vabbè. Lasciamolo fare. Già ora siamo qua, siamo fatti peggio. D'accordo, lui, ci sentiamo, vai, buon proseguimento, buona passeggiata, ciao. Ciao Giovanni, salutoni e alla prossima, a domani se Dio vuole. Ciao.